Avventuriero, fai molta attenzione. I briganti si muovono seguendo un ritmo preciso. Prima si proteggono per 5 secondi, segnalati dal suono X. Poi sferzano 3 attacchi consecutivi, scanditi dal suono Ibisia. Al primo segnale, colpisci. Tocca lo schermo il maggior numero di volte possibile. Non appena senti il secondo segnale, passa alla difesa. Tieni premuto lo schermo e resisti ai 3 colpi in arrivo. Sei pronto? Iniziamo.